Il gastronauta di Davide Paolini. Dietro front, si torna alle lasagne, ai tortellini, al pollo allo spiedo, al pollo alla cacciatora, al bollito, oppure si continua ad andare avanti. Ebbene, buongiorno a tutti cari radioascoltatori e cari gastronauti, mi verrebbe da dire sine qua non per tornare anch'io al passato, ma questa crisi ci porta indietro, è come tutte le crisi che fanno tornare al passato per dire se stava meglio quando si stava peggio, e il mio riferimento è alla cucina. Oppure non è così, l'impressione è sbagliata. Bene, ne discuteremo con molti ospiti, con molti ristoratori e con alcuni critici e autori di guide. Cominciamo a discutere di questo argomento con una delle punte avanzate della cucina italiana, con Massimo Bottura dell'Osteria della Francescana di Modena. Ma io invito anche i nostri radioascoltatori a intervenire su questo tema che mi risulta sia molto sentito. 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Comincio da Massimo Bottura modenese, perché lui un po' di anni fa ha rivoluzionò la presentazione e così la concezione dei tortellini. Allora io lo provoco subito. Massimo, ma dovrai tornare ai tortellini tradizionali serviti in moda tradizionale o continuerai sulla tua strada? No, ciao, innanzitutto buongiorno a tutti. Ciao Davide. Ciao. No, non si può tornare ai fornelli dei nonni e delle nonne. Cioè i prossimi anni saranno una continua sfida sulla qualità per tutti, per gli artigiani, per gli allevatori, per i cuochi. Cioè la gente consumerà meno sicuramente, ma consumerà meglio. Io penso che dovremo applicare l'esperienza della ricerca a un'evoluzione, proprio per cercare un'evoluzione della tradizione, per cercare di nuove immagini, ovvero arrivare proprio nuova tradizione, no? Basata sui prodotti straordinari che ci dà e che ci dà e ci trasmette le nostre terre. Così potremo solo vincere questa sfida a questo punto impossibile. Cioè le nostre radici, il nostro territorio è unico e irripetibile per ognuno di noi, per me o per Ciccio o per Davide, no? Le emozioni mie, le mie esperienze, le mie croste di parmigiano, il mio aceto balsamico saranno secondo me l'arma vincente. Bene, guarda, ti interrompo perché voglio appunto discuterne, poi ti ridò la parola. Abbiamo con noi Carlo Cambi. Carlo Cambi è l'autore di una guida che si chiama Mangia il Rozzo. E diciamo che in questa guida probabilmente le avanguardie non ci sono. E allora voglio chiedere a Cambi come mai e se lui come la pensa. Dunque, intanto voglio dire una cosa che ha detto Massimo Bottura sulla quale non sono d'accordo. La gente rischia di mangiare meno e di mangiare molto peggio. Non so se avete notato la simmetria che c'è tra la caduta del potere d'acquisto e l'incremento delle frodi alimentari. Quindi il problema non è tanto di rivalorizzare i nostri straordinari prodotti, che lo sappiamo tutti, il problema è di renderli accessibili. C'è una proposta che io ho avanzato di tassare DOP e IGP per tentare di farli diventare concorrenziali rispetto ai... Carlo, purtroppo la telefonata si sente male, cercheremo di richiamarti, non si sente. Beh, torniamo a Massimo Bottura, hai sentito un po'? Prego. Io ho partecipato a una tavola rotonda con il direttore, con alcune persone molto importanti di marketing di grandi compagnie al Salone del Gusto, e dicevano che la tendenza era che i prodotti erano tutti col segno meno davanti, tranne i prodotti di alta qualità. Quindi penso che invece sia proprio così, cioè la gente cerchi anche quando va a mangiare di non come una volta andare uscire tipo 7 sere alla settimana, ma uscirne una e magari scegliere la sera giusta e mangiare nel modo giusto. Abbiamo ritrovato Carlo Cambi, prego. Mi sentite bene ora? Sì, ora benissimo, grazie. No, dicevo che quello che dice Massimo, se va bene da un'ottica di ristorazione di elite, si può lui accontentare di avere il ristorante pieno solo il sabato sera. Il problema è che qui, con tutta questa prosopopea della gastronomia che abbiamo fatto, la gente non è più in grado di scegliere anche il mangiare sano, tradizionale, dei giorni nostri. Il rischio veramente è che la gente mangi peggio, che si faccia lo stato junk food, che si trovi questa simmetria tra la caduta del potere d'acquisto e la sofisticazione alimentare. Quindi difendere la cucina tradizionale, o meglio, i ristoranti da 3 primi, 3 secondi, 2 contorni, un dolce a poco prezzo, significa evitare una sorta di analfabetismo di ritorno alimentare nel nostro paese, perché purtroppo oggi se voi andate in un asilo, in una scuola materna, vi rendete conto che le madri danno le pizze congelate, le merendine. No, questo non è vero. Massimo, ma dove vivi? Vivi a Modena, che è un'isola felice. Interrogati su cos'è il settimo milanese, su che è il settimo torinese, interrogati sulle periferie di Bari, interrogati sui luoghi dove non c'è più rapporto con la ruralità. Uno alla volta, ragazzi, uno alla volta, perché sennò non si sente. Però un secondo d'attesa. Sentiamo Emanuela della provincia di Alessandria, la prima radioascoltatrice che interviene. Buongiorno Emanuela. Buongiorno. Prego. Niente, il mio intervento specifico. Sono perfettamente d'accordo con lei e chi la pensa come lei, nel senso che, almeno se ho capito bene, nel senso che la tradizione gastronomica italiana, lasciamo stare le regioni, ogni regione ha le proprie valenze, è quello che bisogna portare avanti per poter salvare la nostra tradizione gastronomica italiana. Io sono piemontese, quindi uso fare anche per lavoro i piatti piemontesi, non disdegno quelli delle regioni vicine, non disdegno assolutamente di provare il piatto siciliano, il piatto calabrese, il piatto pugliese, ma bisogna portare avanti questa tradizione. Bene. Perché i nostri giovani, i nostri ragazzi devono conoscere le nostre tradizioni. Grazie Emanuela, ma grazie, grazie a voi. Lei mi ha dato una paternità che io ancora non ho espresso. Lei ha detto, cioè, la pensa come me. Io ho posto un interrogativo, per cui stiamo discutendo per questo. Pochi secondi per la replica di Massimo Bottura. Ma è assolutamente vero, ma io la penso esattamente così, ma quello che dico è che non possiamo fermarci e non possiamo smetterla di fare ricerca. Cioè, se io ne parlavo con Ballarini, il presidente dell'Accademia della Cucina, che dopo aver mangiato il mio bollito, diceva, ecco un uomo non può fermarsi, noi non possiamo avere dei musei gastronomici, dobbiamo continuare ad andare avanti, dobbiamo riflettere. E in questo piatto, oltre a salvaguardare la tradizione, c'è anche proprio il grande rispetto nella materia prima. E la nostra forza come cucina italiana sarà proprio quella, salvaguardare le piccole realtà di ogni territorio. Bene. Saranno cucine tutte uniche e irripetibili. Grazie a Massimo Bottura e a Carlo Cambio. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare, se torniamo alla cucina di una volta, se le lasagne, i tortellini, la ribollita, la pappa al pomodoro, il pollo allo spiedo e via di seguito torneranno diciamo fortemente sulle nostre tavole, oppure se è un momento, il momento della crisi in cui, come ho detto prima, si torna con la testa indietro, magari si pensa che si stava meglio, oppure è vero, si stava meglio, e così diciamo dal punto di vista della memoria la gente ricorre a piatti del passato, oppure se la realtà è invece un'altra. Non voglio toccare oggi il discorso economico, il discorso della crisi economica, voglio tornare proprio se questa crisi economica incide non tanto sul numero dei coperti, sulla gente che va al ristorante, ma su quello che sta succedendo nelle cucine. Allora ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Sono già arrivati numerosissimi sms, lo voglio leggere uno. Peccato che se anche esco una volta alla settimana non mi posso permettere di spendere 120 euro a persona, vini esclusi. Questa è una risposta forse data a Bottura quando diceva che bisogna mangiare, diciamo uscire meno e mangiare meglio. Bene, voglio continuare appunto questa discussione con Fabio Picchi. Buongiorno Fabio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Patron del ristorante Il Cibreo di Firenze, che sicuramente ha mantenuto molta coerenza in questi 30 anni di attività sulla sua cucina. Voglio sapere lui cosa ne pensa. Ma che ti devo dire, la crisi c'è e bisogna saperne approfittare, perché così è. Io ho sempre cercato nel rapporto con il territorio la base della mia cucina, ma non per intelligenza, soltanto per passione emotiva rispetto ad alcuni cibi cucinati e una certa lontananza emotiva invece a troppo cibo raccontato. L'astice di Anchorage non mi è mai interessato, fermo restando che l'astice di Anchorage, tu lo sai, quando si pagava in lire costava 8.000 lire e già all'epoca le acciughe costavano 18. La grande ristorazione riempiva i propri menù di astice, io ho sempre insistito con le acciughe, che c'è poco da fare, costano di più. E allora che fare, Davide? Fare buon senso, come le nostre madri, come le nostre nonne, come l'economia domestica che le donne hanno smesso di fare, mentre purtroppo forse bisognava insieme anche noi uomini cominciare a fare con loro, fare utilizzo della dispensa e non dei frigoriferi. Questa io la vado a ripetere ormai da 20 anni. Una bottiglia d'olio sì, è certamente una cosa costosa, ma siamo così sicuri? Perché una merenda con pane e olio preserva l'anima, lo stomaco, il cervello e non solo. Non c'è, come si dice, sperpero, perché le nostre pattumiere, c'è poco da fare, ragazzi, guardiamole, sono piene di cose, certo, buttate via. Scusami, No, no, no, ma è così, perché i dati sul cibo, di rifiuti dei cibi che prima della scadenza sono davvero drammatici. È impressionante, ma parliamo delle mense scolastiche dei nostri figli, perché da lì noi possiamo agire e fare di noi stessi buon uso, ma per creare poi un meccanismo antropologico che agisca veramente in profondo bisogna avere il coraggio di ricominciare dalle scuole elementari. Bene, Joe, ti interrompo perché vedo una radioascoltatrice da Pisa che è un ex insegnante. Buongiorno Gabriella. Buongiorno dottor Paolini, piacere di sentirla. Ascolti, io appunto volevo intervenire soprattutto per quello che aveva detto quel signore che era piuttosto, diciamo, aggressivo nel parlare delle mense delle scuole. Sì. Allora, io voglio dire questo, che non ho trovato niente di vero di quello che diceva quel signore. Allora, nella Pis provincia deve sapere che c'è ogni scuola, ogni plesso scolastico, ora è un po' cambiata, no? Però ogni plesso ha la sua dietista mandata dall'USLE. All'inizio dell'anno lei fa la, perché ora si chiamano tutte diete, ma in realtà si chiamano razioni alimentari, cioè il termine di dieta non è, certo, è diverso, certo. Uno per dieta, certo, intende una particolare quantità di, cioè un cibo che ha determinate calorie, quindi la razione alimentare è una cosa diversa. Bene, mi sembra di capire che lei vuole smentire quello che ha detto. Senti, prima Carlo poi Cambi. Poi un'altra cosa, okay. I nostri bambini anche del tempo pieno, innanzitutto le merendine sono vietate da tutte le scuole materne. La mattina bambini, dopo che sono venuti così abbiamo fatto insieme un'assemblea, così gli viene data una spremuta di frutta d'arancia. Bene, poi, grazie Gabriella, perché abbiamo capito il suo intervento. Abbiamo tanti radioascoltatori, mi scusi, ma abbiamo capito il senso del suo intervento. Sentiamo Giorgio da Bologna. Buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno Davide, buongiorno a te, ben ritrovato. No, poche parole. Intanto volevo fare una premessa, che fare una cucina della tradizione è molto più ricerca che una cucina di ricerca, perché la cucina di tradizione bisogna saperla fare, è un grande patrimonio, e ritengo che sono tanti gli chef e i cuochi che in Italia stanno percorrendo questa strada, ma attenzione, perché questa è una strada, come dire, tortuosa, e non è sicuramente semplice. Dal mio punto di vista è più semplice fare una cucina di ricerca che di tradizione. Poi i ristoratori hanno una grandissima responsabilità rispetto al tema della giornata. Intanto mancano le regole assolutamente, perché chi apre un ristorante, ritengo ancora oggi, questa è la mia idea, deve affrontare degli esami, deve affrontare una commissione, deve assolutamente entrare nel comparto a pieno titolo, se no non apri nulla, neanche una panino. Un paninoteca. Premesso questo, ritengo che si può tornare a una cucina della tradizione, ma ahimè penso che chi la farà, chi la può fare, punto interrogativo. Bene, grazie a Giorgio di Enogà di Bologna, mi sembra di aver capito la sua voce, grazie Giorgio. Ora voglio chiedere a Marco Bolasco, che ha ascoltato un po' quanto è stato detto, cosa ne pensa. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ma ne penso che mi colpisce sempre questo aspetto di contrapposizione. Cioè, non capisco perché dai momenti come questo, che sono momenti importanti, anche forse per fare dei passi avanti, ne dobbiamo uscire con una contrapposizione, per esempio, tra ricerca e tradizione. Sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore che è appena intervenuto. Fare cucina di tradizione, che bisogna anche capire cosa intendiamo, non è semplice. Se questo è un momento buono per tornare ai nostri valori primari e per riflettere su questo, io sono felicissimo, credo che sia un'occasione proprio da cavalcare, però sapendo che c'è da lavorare, e c'è da lavorare non tanto nel dire ciò che è meglio e ciò che è peggio, non per fare un'altra volta Don Camillo e Peppone, ma per riflettere su cosa di questa tradizione noi possiamo prendere ed elevare ad alti concetti, alti livelli. In questo senso io credo che la cucina, se volete, un po' più spettacolare, o comunque quella un po' più creativa, che tanto ha riempito le pagine e le televisioni di questi ultimi anni, ci è servita a parlare un po' più di cucina. Allora, adesso vogliamo tornare a riflettere un po' di più sulla nostra identità? Facciamolo, ma sapendo che dobbiamo andare oltre il che buoni gli spaghetti al mio pomodoro. Cioè, dobbiamo spiegare esattamente perché questi spaghetti sono grandiosi, perché sono fatti in un certo modo, perché il pomodoro che cresce, non so, nell'agro nocerino è un pomodoro unico, perché le peculiarità della cucina italiana sono davvero differenti tecnicamente, perché poi anche questa è tecnica, confrontabili con tutte le grandi cucine del mondo. Bene, grazie Marco, ricordo numero verde 800 24 00 24, sento Francesco da Milano. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno. Mi dica. Niente, mi inquieta un po' a volte la tendenza a innovare, come diceva prima Bottura, mi sembra si chiami. Sì. Nel senso che c'è un limite oltre il quale la cucina cosiddetta innovativa diventa quasi grottesca, no? Cioè, le faccio un esempio, c'è qua a Milano un ristorante che si chiama Il Quadrifoglio, che penso siano almeno 30 anni che cerca di innovare quelli che sono piatti della tradizione di tutta Italia, nel senso che è una cucina molto varia. Però quando mangi un piatto da loro, ti sembra di mangiare un piatto della tradizione. Bene. Ma quella è un'innovazione, secondo me, che va bene, nel senso che tiene tutte le caratteristiche della tradizione, ma poi quando ci ripensi dici sì, però effettivamente ha messo questo ingrediente e quest'altro che... Guardi, io ho una battuta che mi piace molto, che la tradizione è un'innovazione riuscita. Credo che sia un qualcosa che dice tutto, può dire tutto anche sul discorso della cucina. Ma torno a Fabio Picchi. Tra l'altro voglio ricordare che il venerdì 13 alle ore 19, proprio nel Teatro del Sale di Fabio Picchi a Firenze, faremo un dibattito su questo argomento. Voglio risentire Fabio Picchi. Eccomi. No, ma io sono d'accordo con tutti all'incirca, no? Tranne che sugli esami obbligatori, perché gli esami mi fanno sempre paura, anche perché c'è un mondo extracomunitario che sta arrivando nel nostro paese con le proprie tradizioni, con le proprie sapienze, e vorrei vedere aprire e fiorire anche le diversità in ambito culturale. La cucina è sempre stato contatto, è sempre stato apertura. I monaci si sono mossi illo tempore per tutto il bacino mediterraneo portando tecniche e saperi. Io ho ritrovato in Grecia nel piglio i fagiolini di mia madre, non a caso i kraffen in zona Isola d'Elba, Livorno, Castiglioncello si chiamano frati, proprio perché la cucina è comunicazione. Ora io capisco che qualcuno voglia ridurre tutto poi ad un esame, a un controllo, ne capisco anche le motivazioni, ma preferisco il rischio, perché viceversa si limiterebbe poi, no? Il fiorire anche di nuova realtà, certo. C'è un ragazzo qui a Firenze che ha aperto, e so che Marco di questo lo sa, va bene, un posto dove fa soltanto degli splendidi panini, E mamma mia, esami per far panini? No! Certo. Salsiccia cruda nel pane libera. Bene, grazie, grazie Fabio. Sentiamo un radioascoltatore, Roberto da Imperia. Buongiorno Roberto. Ciao a tutti. Io voglio semplicemente portare una testimonianza in questo senso. Noi si parla di innovazione e di qualità. Noi abbiamo cercato di coniugare questi termini producendo il pesto genovese, famosissimo, il pesto fresco, a partire dalla coltivazione del basilico fresco tutto l'anno. Ne abbiamo ottenuto naturalmente un prodotto di qualità superiore e la testimonianza è proprio questa. Davanti al concetto delle vendite abbiamo un grande segno più. Bene. Quindi, contributo. Bene, in questo momento sentire questo fa bene al cuore. Bene, io ringrazio Marco Bolasco e Fabio Picchi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a discutere su questa metafora che io ho fatto, ma non è interrogativa. Torniamo indietro, torniamo alle lasagne, torniamo ai tortellini, al pollo allo spiedo. Torniamo insomma a dei piatti che più che altro sono casalinghi, familiari e sono della tradizione. Questa crisi forse fa tornare indietro psicologicamente a quando si stava meglio probabilmente, o quando si pensava forse di stare meglio, non lo so. Comunque io gli sms sono già tantissimi, vedo che tutti parlano della trattoria, segnalano la trattoria in un posto, la trattoria nell'altro, un piatto sempre di più diciamo versati verso la tradizione. Non lo so, magari sono solo questi che scrivono, questi sono interrogativi che magari vedremo anche nelle prossime settimane. Bene, abbiamo con noi Antonio Santini del pescatore, del ristorante Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio, che è sempre stato preso come un po' un esempio di cucina del territorio, quindi cucina della tradizione. Volevo chiedergli questo. Antonio, ma in questi ultimi mesi, diciamo, la gente torna e vuole mangiare veramente quei piatti che così si identificano con la tradizione, o qualche volta vengono da te e cercano anche qualcosa di nuovo? Innanzitutto buongiorno a tutti. Ma devo dire che sempre nei momenti più difficili si vuole tornare alla cucina della mamma, ma questo non ci deve far tornare indietro. Credo che un cuoco dovrebbe, utilizzando il meglio dei prodotti disponibili, valorizzarli secondo la sua sensibilità, la sua capacità, trovando quando è possibile sempre un equilibrio tra innovazione e tradizione. Altrimenti pensare che le lasagne della nonna possano essere attuali ci porta fuori strada. Dal punto di vista nutrizionale per noi non è più possibile mangiare le lasagne che mangiavamo 50 anni fa, quindi dobbiamo fare in modo di proporre le lasagne con attualità, attualizzarle secondo i nostri gusti, le nostre esigenze alimentari e fare in modo però di non perdere quello che è legato alla nostra storia. Ma comunque bisogna sempre andare avanti. Grazie. Sentiamo Nivia dalla provincia di Modena, una radioascoltatrice. Buongiorno Nivia. Buongiorno. Mi dica. No, penso che c'è un po' sull'alimentazione, un po' la tradizione, ma anche l'innovazione. Le cose, ci tenevo a sottolineare alcune iniziative molto carine, che sono il recupero dell'esperienza delle cuoche presso gli asili nido di Modena. Hanno raccolto in un ricettario l'esperienza delle cuoche realizzate insieme ai bambini degli asili nido. Ho capito. E un'altra cosa che è molto simpatica, che è stato un breve corso di cucina per i papà. Bene, grazie Nivia della segnalazione di queste iniziative, specialmente quella delle mense. E abbiamo con noi anche Stefano Bonilli, che da oltre 30 anni segue la ristorazione italiana, quindi volevo chiedere a lui se pensa che stia succedendo qualcosa al di là, diciamo, di una riduzione ovviamente di presenze data anche dalla crisi congiunturale, anzi direi strutturale, ma se invece sta succedendo qualcosa anche all'interno, cioè dall'interno appunto dell'evoluzione della cucina. Si ferma l'evoluzione della cucina per un momento oppure no, va avanti come sempre? Intanto quello che sta succedendo non fa altro che, come dire, affondare le radici nella nostra storia familiare. In Italia si mangia bene a casa, e quindi quando si va fuori si ricerca quel mangiare bene, e l'unità di misura è sempre stata fino adesso, e nonostante la crescita, la ristorazione alta, l'unità di misura è sempre stata la trattoria, quindi non c'è come dire, in realtà un grande cambiamento, perché poi era una compagnia di giro di 3.000, 5.000, 20.000 persone che giravano nell'alta ristorazione, ma la vera ristorazione, quella che fa i numeri, 80.000 luoghi che danno da mangiare in Italia, è un'altra, e ha sempre avuto l'unità di misura della trattoria, quindi non è il ritorno alla lasagna. Io sono di Bologna, a Bologna si mangiano delle pessime lasagne tranne in pochi posti, la gente non reagisce, quindi ci deve essere qualcosa di malato in fondo. Quindi tu dici che sicuramente lo zoccolo duro della ristorazione italiana è sempre rimasto quello, e quello che tiene botta in questo momento? Assolutamente, cioè tanto è vero, io adesso sono a Roma e i locali che non si erano posizionati, come dire, in modo sbagliato, cioè in quella via di mezzo tra i 50 euro e gli 80 euro, sono pieni, cioè è difficile immaginare la crisi guardando alcune trattorie di Roma dove bisogna prenotare all'ora di pranzo. Ecco, ma i ristoranti sopra i 100 euro, quelli che hanno fatto della spesa? Quelli piangono, ovvero sia, sono quelli che hanno basi solide. Antonio Santini, cioè il pescatore, se io devo spendere dei soldi mi comincio a selezionare i posti che sono certi, quindi, come dire, questo va a scapito della ricerca nella ristorazione, e questo non è un bene, ma comunque siamo sempre stati conservatori e conservativi, diciamo, tutte le polemiche su alcuni dei nostri migliori cuochi viste sui giornali fanno veramente cadere proprio le braccia. Bene, sentiamo Enrico da Genova, un radioascoltatore. Buongiorno, sì, Enrico. Buongiorno, premesso che mi occupo di cucine da un bel po' di anni, sì, e ho un amico carissimo che fa, diciamo, che aveva maiali di cinta in Toscana, che conoscete anche voi senza, sì, fare nome. Ecco, io credo che sia principalmente un problema di cultura che si è perduta in molte persone. Gli appassionati l'hanno riscoperta, come ad esempio questo amico che si è messo ad allevare i maiali lasciandoli liberi, eccetera, ma questo è un caso isolato, cioè c'è Bottura, che io so che è uno molto grande, che fa ricerca, e comunque il punto principale è che la ricerca non deve essere disgiunta dalla qualità dei piatti semplici. Intendo dire che come in campo automobilistico, Ferrari, Porsche, eccetera, fanno ricerca con un prodotto di altissimo livello, e questo può essere Bottura, il pescatore, eccetera. Ma questo non toglie che chi compra una panda, quindi che va a mangiare il panino, non debba richiedere una qualità di fondo buona, cioè non mangiare dei prosciutti che arrivano dalla Cina che non si sa che cosa abbia mangiato i maiali. Quello è sbagliato. I figli nostri devono poter mangiare delle cose semplici, buone. Se poi si vuole andare sul barocco o sulle cose finte che purtroppo si trovano, beh, uno può essere libero di farlo, ma non nella mensa scolastica. Secondo me la qualità deve essere imprescindibile dal livello. Grazie, ma io credo che la ricerca molte volte si fa confusione, cioè ricerca la fa il cuoco che va a ricercare, va a inventarsi dei piatti inediti, ma ricerca la fa anche chi fa tradizione sulla qualità dei prodotti, vero Antonio Santini? Ricerca, l'ultimo signore ha parlato di un noto produttore di maialini di cinta, sì, senese, come altri produttori che fanno cose eccezionali. Credo che la ricerca la debbano fare tutti, e sono d'accordo che i primi a dover mangiare bene sono i bambini nelle scuole, i primi a dover essere educati sono loro, perché se noi educhiamo i bambini a pretendere e volere delle cose di primo livello, avremo sicuramente una società migliore. Credo che tutti quelli che parlano di cibo lo fanno a fin di bene, e dobbiamo sempre di più avere la presunzione di essere, non dico di essere degli esperti, ma ognuno di noi deve fare il massimo per pretendere di più. Quindi dobbiamo scandalizzarci solo se il prezzo di un alimento ci viene proposto sempre più basso, perché non potremo mai avere dei produttori che ci danno il meglio se non paghiamo loro il minimo per ottenerlo. Grazie Antonio Santini. Sentiamo Giovanni dalla provincia di Lecco. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolino. Sì, io volevo dire che non si può contraria all'innovazione. Però io penso che l'innovazione non debba portare all'aumento dei prezzi che si vanno a pagare, perché oramai è impossibile andare come si faceva negli anni 70 a visitare tutti i posti che la Michelin indicava e si pagava un minimo che poteva essere sostenuto. Senta Giovanni, si sente malissimo, però io ho capito, lei parla, dice l'innovazione va bene ma poi aumentano i prezzi, questo dice lei. Lei sostiene che l'innovazione porta aumento dei prezzi, ma dipende, voglio girare questa domanda a Stefano Bonilli. No, io non credo proprio che l'innovazione porti all'aumento di prezzi, invece trovo che la vera base, come dicevi tu, è la grande filiera dei produttori di, diciamo, di materie prime, eccetera, dalla quale si riforniscono i bravi ristoratori, sia essi trattoria o ristorante medio, non parliamo poi dei ristoratori, diciamo, di punta. Quello lì è il vero grande zoccolo, immenso punto di forza dell'Italia. Non ce l'ha nessun altro paese al mondo questa filiera pazzesca, e per fortuna adesso ci stanno ritornando i giovani e bisogna remunerarla. La qualità ha un costo, non è possibile pensare di avere a prezzi bassi alta qualità. Bene, sicuramente questo è un dato di fatto che molti se ne devono rendere conto, perché vedo molti sms, però devo dire, cari radioascoltatori, non è possibile andare a mangiare e mangiare delle materie prime di grandissima qualità indipendentemente da come sono cucinate, se in maniera innovativa, se in maniera tradizionale, e non volere pagare questa qualità. Bisogna anche rendersi conto, sì, siamo in crisi, però il nostro esborso percentuale sull'alimentazione è rimasto quello di tantissimi anni fa, mentre è aumentato quello di telefonini e di altri oggetti veramente inutili. Quindi io credo che su questo bisogna un po' riflettere, quando si va a mangiare anche guardare bene, perché certi piatti a certi prezzi sicuramente non so cosa nascondono, così come più volte ho detto che un olio d'oliva extravergine al supermercato a 3 euro mi fa un po' paura. Bene, ora passo la linea alla viabilità, torneremo fra poco, grazie a Antonio Santini e a Stefano Bonilli, e ringrazio ora che c'è Davide Scabin con noi, rimanga in linea per qualche minuto. Il gastronauta. Bene, ripeto la mia provocazione, torniamo alle lasagne, ai tortellini, interrogativo ovviamente, non è che io do questa risposta, ma vedo un sms che sicuramente devo leggere perché mi sembra importante. Perché non parlate dei menù per operai? Se voglio mangiare bene scelgo quelle trattorie, dice Claudio. E Claudio, stiamo parlando anche di zoccolo duro, stiamo parlando di trattorie, mi sembra che sì, è vero, cioè i menù per operai, non so se intende quelli di mezzogiorno dove l'operaio ha un'ora diciamo di tempo. E io ne ho parlato più volte, perché c'è una trattoria a Firenze al mercato di San Lorenzo che si chiama Mario, e il quale a mezzogiorno, diciamo, ha gli operai, poi all'una, a mezzogiorno e mezzo ha altre tipologie, e quindi ci vanno tutti e io ci vado molto spesso, quindi perché no, parliamo anche di questo. Ma abbiamo con noi Davide Scabin del Combal Zero di Rivoli, uno delle punte avanzate della nostra cucina. Da lui voglio chiedere se qualche tempo fa, ritornando a dei menù che ricordavano un po' lo Scabin prima maniera, avesse, così come posso dire, individuato, capito che qualcosa stava succedendo, diciamo anche nel consumo della gente. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti. Premetto che sono in un posto dove non c'era una radio, quindi non ho ascoltato niente fino adesso, purtroppo, della trasmissione, quindi cadrò a bomba, sì. E rimarrò confinato sulla domanda che mi fai. Sinceramente mi fa molto piacere che un giornalista importante come te dica questo, perché sono sincero, nel 2007 al congresso italiano di gastronomia io ho lanciato un monito presentando la mia nuova carta, dicendo: signori, bisogna ritornare a un discorso di solidità e attenzione a quello che viene considerato oggi essere creativi. Chiusa parentesi, rimango sul tema. Io non è che avessi identificato logicamente quello che poteva essere una necessità in base a una, alla crisi nella quale ci troviamo in mezzo in questo momento. Penso che stiamo proprio entrando nell'occhio del ciclone, perché altrimenti probabilmente mi sarei occupato di previsioni finanziarie e sarei, molto, sarei diventato ricchissimo. Diciamo che era un paio d'anni che percepivo che la corsa folle all'impazzata dove verso il l'evanescente secondo me sarebbe, avrebbe iniziato un declino automaticamente, logicamente occupandomi solitamente un po' in anticipo, perché quando uno fa ricerca si occupa in anticipo di certe cose, percepisce prima, un po' più sensibile, vede un po' più lungo all'orizzonte, ma anche solo per necessità mia, cioè ero io che anche ero stufo di ricerca sotto un certo aspetto. Premetto, non è che facessi una ricerca creativa sul niente, perché l'importante è dare solidità, perché ricordiamoci che si vende sempre un prodotto commerciale, non, i cuochi commettono un errore quando si considerano degli artisti, al limite c'è qualcuno che può ritenere per l'emozione che vive che tu riesci tramite il cucinare a raggiungere un'espressione artistica, questa è una cosa diversa. Per quanto riguarda il discorso che ho sentito, mangiare nei due minuti che erano nel precollegamento, ritorniamo al menù da operaio, io dico, signore, ma come mai non si andava a cercare il menù da operaio quando c'erano le vacche grasse, quando non era più di tendenza, non certo. Era più di moda? Questo è quello che ho. Bene, questo interrogativo lo lanciamo ben volentieri. Sentiamo velocemente Ivan dalla provincia di Modena, radioascoltatore. Buongiorno Ivan. Pronto, buongiorno. Mi dica. Io le ascolto con interesse la trasmissione, capisco che ci sia bisogno di ricerche, ci sia bisogno di prodotti di qualità, anzi, indispensabili prodotti di qualità. Però mi viene spontanea una domanda. Io che ho una famiglia, una moglie, due figli, e vorrei uscire qualche volta a mangiare assieme qualcosa di qualità, perché ci piace mangiare cose di qualità, è chiaro. Come me lo posso permettere questo quando devo comunque fare i conti con i pochi soldi che ho a disposizione? Bene. Come posso pensare? Questa è la domanda che magari avrebbero voluto fare in molti, e io ho con noi Enzo Vizzeri, direttore delle guide dell'Espresso, e la giro a lui. Ciao Enzo. Ciao, buongiorno a tutti. Io anch'io devo chiedere scusa come Davide Scabin, io non ho sentito nulla fino adesso perché ero in aereo, sono sceso bene. Tutti fa dall'aereo, e quindi io devo dire che dà sempre fastidio dire io l'avevo detto, però mi permetto di ricordare che il primo editoriale della Guida dell'Espresso che io scrissi 8 o 9 anni fa, non ricordo, era intitolato Per una cucina buona e sana, e sono, questo continua a essere un po', perlomeno sotto la mia gestione, sotto la mia direzione, il motto della scelta e dei giudizi di conseguenza dei ristoranti nella guida che dirigo. Questo al di là delle tipologie, delle etichette che si vogliono attribuire alle diverse cucine. Si può, non è vero che non si può mangiare bene, vengo alla domanda diretta del nostro ultimo ascoltatore, anche con spesa ragionevole. Ecco, bisogna davvero imparare da un lato, soprattutto da parte dei consumatori, a capire che cosa si mangia, a capire che cosa è effettivamente la qualità, non farsi ingannare dagli orpelli, dal luccichio e anche, vorrei dire, da dichiarazioni fasulle, andare alla sostanza, capire la differenza tra il buono e sano e il naturale e l'artificioso e il tecnologicamente o il tecnicamente sofisticato, quando non sono strettamente finalizzati a rendere migliore la qualità del cibo e di ciò che si mangia. Guarda Enzo, ti leggo un SMS. La materia prima è scandalosa, in troppi locali affollati dove la fiandra e il cristallo la sostituisci in toto. I clienti non la conoscono, non la capiscono, ma soprattutto non la vogliono pagare, e si affollano i locali, non quelli seri. Ma allora, io io non sono completamente d'accordo che cioè, non è così semplice, lo sappiamo benissimo, esistono locali importanti che fanno pagare molto per la qualità del servizio, per le posate, per i bicchieri, per tutto quello piatto, e che comunque lavorano materie prime di qualità eccellente. Certo. Li conosciamo tutti benissimo, tu Davide, come li conosco io, come li conoscono i nostri ascoltatori. Ecco, la cosa importante è questa effettivamente, imparare, e anche questa è una banalità che tra noi addetti ai lavori ci ripetiamo e ripetiamo, forse non abbastanza ma da molti anni, è meglio andare al ristorante una volta sola. Certo. A mangiare davvero come vale la pena, ovvero come e che cosa non si mangerebbe a casa propria. Certo. Che andare quattro volte a mangiare mediocremente o male. Bisogna sapere scegliere. Certo. Bisogna sapere scegliere, quindi a seguire consigli delle persone, degli articoli, di chi scrive, delle guide, di cui ci si può fidare, di cui si è provata l'affidabilità, e scegliere. Però si può, ribadisco che si può, io conosco, me li conosci tu, ne hai scritto tu, ne le scriviamo tutti, locali dove si mangia più che dignitosamente spendendo ancora i 28, i 30, i 32 euro. Bene, sentiamo Mauro da Roma. Buongiorno Mauro. Buongiorno, sono di Anzio. Sì. Allora, volevo dire, io sono un produttore di pasta, titolare di un piccolo pasticcio. Sì. Artigianale. Noi fabbrichiamo pasta del tutto naturale, addirittura non la pastorizzo per mantenere proprio la fragranza e per far prendere meglio i condimenti. I nostri ripieni, i miei ripieni dei miei ravioli, io giornalmente prendo le materie prime, lavoro con il fresco. Proprio non mi interessa tutto ciò che è liofilizzato. Mauro, la devo velocizzare perché mi mancano due minuti alla chiusura. Sì. Noi facciamo un'ottima ricerca di materie prime, però facciamo i conti con un mercato a prezzo scandaloso e qui si incontrano le vere difficoltà. Ho capito, lei dice. Comunque, uno che vuole comunque mantenere un prodotto prettamente italiano. Costa. Fatto è, ha il suo costo. Vai in questi bellissimi ristoranti dove si paga anche quasi a momenti anche il biglietto d'ingresso. Sì. E poi vogliono il prezzo sbracato perché loro Bene. Pensano solo al denaro. Abbiamo capito, Mauro, il senso della sua domanda. Chiediamo allora Andrea da Treviso. Buongiorno Andrea. Sì, salve. Velocissimo, 15 secondi Andrea. Velocissimo, tre pillole. Allora io ho un locale e ho sempre puntato sul prodotto comunque di qualità, è un pub, però ritengo comunque che nel panino, nel toast, se metto un prosciutto scadente si sente. Ecco, magari si potessero mangiare degli ottimi toast, io li sto cercando, ma santo cielo, non si trovano da nessuna parte. Deve venire da noi. Allora, io rinuncio rispetto a dei concorrenti a un utile a fine anno, ne sono cosciente perché spendo molto di più per la materia prima, ma negli anni siamo stati premiati perché il pub comunque è sempre pieno. Beh, grazie Andrea, ma continui a fare i toast fatti bene. Un'ultima battuta a Davide Scabin. Davide, ma secondo te il futuro come sarà di fronte a questa crisi? Ma il futuro, io dico che le crisi servono sempre, quando c'è le vacche grasse nel quale nel pentolone si butta di tutto e tutti quanti riescono a galleggiare, quando ci sono le vacche magre arriva il setaccio, arriva il filtro e passano soltanto le cose giuste, fini, precise, quelli che lavorano con cognizione e morale. Dico che il cerpame viene scremato durante le crisi, fondamentalmente il settore però della fascia alta ristorativa e non alta, cioè alta chi vuol dire chi fa qualità. Certo. Non vuol dire alto per quelli che fanno i menù da 100 euro, io parlo anche del signore del pub, bisogna resistere e credere ancora nel settore, chi ha la passione traghetterà bene la crisi perché continua a non lasciarsi andare in questa corsa al ribasso. Io voglio solo dire una cosa, ma fin quando gli italiani vengono sensibilizzati su quello pubblicità, scandalo secondo me, anche se è geniale quello che ha fatto la pubblicità della Sky ultimamente, dove si fa la differenza sociale perché hai Sky o meno, ti senti quasi in colpa e corri dietro a questa solidarietà sociale, io dico che grazie, ti devo portare via la parola, ti devo portare via la parola e ringrazio i nostri radioascoltatori e adesso continua il riposo del guerriero con Stefano Gallarini.